Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Appuntamenti. Io spero che ci siamo, non fosse altro, ecco, qui già incominciamo a sentire la mancanza di Caterina praticamente. Caterina che oggi sarebbe dovuta essere in trasmissione con noi per farci da tecnica, e apriamo questa trasmissione proprio salutando lei prima ancora che tutte voi. Salutiamo la nostra amica e compagna per me Caterina, alla quale dedichiamo questa trasmissione. Caterina purtroppo è in ospedale, speriamo e ci auguriamo che guarisca presto e che torni prima ancora che a casa qui con noi a darci una mano, perché siamo proprio delle imbranate. Ed è proprio a lei che dedichiamo questa canzone, anzi che io dedico in particolar modo questa canzone. Che con l'alba sei partito, con le tue valigie verso un'altra vita, riempirei di meraviglia la città, ma forse dopo un po' prenderei ad organizzarmi l'esistenza, mi convincerei. Chiamerei gli amici con curiosità e me ne andrei da qua. Capissi che non stiamo più parlando, ti guardassi e non ti conoscessi più. Soffitto, ti direi le cose che non ho mai detto, che pericolo la quotidianità e la tranquillità. Dove sei, come vivi dentro, c'è sempre sentimento. Allora, benvenute alla trasmissione Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Stasera in radio Pina, che avete appena sentito, e io che sono Lucilla. E un altro messaggio da Lucilla a Caterina, che spero mi stia ascoltando. Cate, sono io alla console, aiuto. E questa trasmissione, come ha detto Pina, è dedicata a Caterina da parte di tutte noi della redazione, e questa trasmissione non possiamo fare a meno di parlare di guerra. Adesso inizierà Pina e poi proseguiremo con alcuni elaborati e ad alcuni flash che sono anche il frutto di quello che noi proviamo, noi sentiamo. Vai Pina. Non possiamo non parlare della guerra, che è poi la grande protagonista di questi giorni, purtroppo, perché per noi la guerra è quella cosa orrenda che devasta, mutila, annienta, procura morte, devastazione, distruzione, desolazione. La guerra è quanto di più orribile ci sia. Ebbene, però, sembrerebbe che l'orrore tra le mani di qualcuno sia diventato gioco, svago, delirio di onnipotenza, mezzo per affermare la supremazia, il dominio, mezzo di impunità. Ma perché? Esistono delle guerre giuste o delle guerre ingiuste? Perché l'hanno chiamata guerra giusta questa? Noi del CRL sappiamo che è ingiusto che Saddam opprima il suo popolo, lo schiavizzi, lo riduca ad automa. Lo diciamo anche noi, così come diciamo e come crediamo che gli americani non possano e non debbano sterminare il popolo iracheno. Saddam non è il pazzo sanguinario dell'ultima ora, lo è sempre stato, lo ha nel suo DNA. Ma perché allora gli americani, quando gli ha fatto conto, lo hanno utilizzato, giustificando, meglio ignorando proprio questo fatto? Noi riteniamo che nessuno possa avere la licenza di uccidere, distruggere. Noi riteniamo che nessuno possa sottrarre a un popolo il diritto principale ai danni di donne e uomini, e che è in particolar modo il diritto alla vita, praticamente. Noi riteniamo che che la verità non stia né dall'una né dall'altra parte, diciamoci la verità. Cioè, noi riteniamo che non possiamo parteggiare, noi non stiamo qui a parteggiare per l'una o per l'altra persona, vogliamo soltanto vedere le cose nella giusta angolazione, perché noi riteniamo che il terrorista sia il primo, il terrorista sia il secondo. Non esistono terroristi autorizzati, il fine non può giustificare i mezzi. E in generale, per quanto ci riguarda, i terroristi, da qualsiasi parte essa siano o provengano, sono da condannare. E allora perché non dobbiamo, non vogliamo condannare questa strage annunciata? Esistono altre forme di protesta e di dissenso, e qui stiamo partendo dal concetto, che è reale la motivazione che spinge gli americani ad attaccare, e i suoi alleati anche, ad attaccare Saddam Hussein e a fare la guerra. Noi riteniamo che, cioè, non entriamo nel merito, perché sappiamo che la verità sta da tutt'altra parte, che il vero motivo per il quale gli americani stanno bombardando Baghdad, stanno radendo al suolo un'intera città, ma prima ancora che un'intera città, un'intera popolazione, principalmente le donne, i bambini e i vecchi, cioè tutte quelle bombe che sono piovute dal cielo sui mercati oppure nei posti dove noi neanche sappiamo che cosa sta succedendo, perché questo è quello che vedono i giornalisti, questo è quello che ci raccontano, o meglio alcuni giornalisti, perché non tutti poi alla fine ci dicono la verità, no? Perché c'è qualcuno che ha parlato quando erano già morti dei civili iracheni e poi sono praticamente caduti gli elicotteri americani. C'è qualche giornalista, ed era una giornalista in particolar modo, e anche un giornalista, hanno detto le prime vittime della guerra, cioè praticamente come se le altre vittime non esistessero, come se gli iracheni, le irachene che erano cadute sotto il fuoco delle bombe non fossero vittime, perché probabilmente per loro sono carnefici. Che probabilmente per loro sono conniventi tanto quanto con l'oppressore Saddam. Ma perché? Saddam non opprimeva anche prima il suo popolo? Come mai gli americani lo hanno ignorato questo fatto? Loro non sapevano chi l'ha messo in quel posto? A Saddam Hussein, proprio gli americani. E allora perché oggi, a distanza di tot anni, noi ci dobbiamo rendere conto e noi dobbiamo dire che il popolo iracheno va liberato dall'oppressore, va liberato dal pazzo sanguinario. Solo oggi, a distanza di tutti questi anni, quantomeno insomma qualcuno che riesce a pensare dovrebbe immaginare, insomma, cioè gli dovrebbe un po' puzzare la cosa. E poi io mi chiedo un'altra cosa, al di là proprio di quello che ognuno di noi possa pensare, perché purtroppo io sento, vado in giro e sento che ci sono delle persone che dicono che la guerra, questa guerra è giusta, che Saddam va destituito da quel posto. Io mi chiedo soltanto una cosa, ma che colpa tutte quelle donne, tutte quelle vittime innocenti e civili che cadono sotto il fuoco del nemico, cioè che colpa avranno? Che colpa hanno, scusate? E mi chiedo ancora, domani, quando tutto questo sarà finito, chi sarà il vero nemico per loro? Il vero nemico sarà Saddam? O saranno gli americani e i loro alleati che hanno procurato morti e stragi, magari dei propri cari, dei propri familiari? Questo è un interrogativo che mi pongo. Io mi ricordo il giorno che è scoppiata la guerra, la mattina alle 6 è squillato il mio telefonino perché avevamo fatto un tam tam tra colleghi per scendere immediatamente in piazza. Ebbene, a me quel suono di quel telefonino mi ha talmente spaventato, ho fatto un salto dal sonno, ho sbattuto, mi ricordo, anche la testa nel muro. E immediatamente ho pensato, se a me un telefonino in questo momento mi sta procurando quest'ansia e questa tachicardia, io immagino se qui, a due passi, dietro casa mia, venisse giù una bomba, io come mi sentirei? Quindi ho incominciato a pensare come si possono sentire, come si stanno sentendo quelle persone alle quali va tutta la nostra solidarietà e per le quali penso che ognuno di noi ha il dovere di continuare a scendere in piazza e a protestare, di continuare praticamente a dire al nostro governo e a tutti quanti gli altri la nostra indignazione, la nostra, tutto il nostro sdegno praticamente. per quello che sta succedendo, perché riteniamo che nessuno ha la licenza di uccidere, nessuno in assoluto, che le morti sono morti, punto. Quindi di conseguenza a questo punto proviamo ad ascoltare una canzone e poi a riprendere ancora sulla guerra. La na na na na la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la hey in a bubble on the Bobby McGee la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la hey in a bubble on the Bobby McGee. It's the best I can, come on. And the Bobby, no. And the Bobby McGee, yeah. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Hey, hey, hey, Bobby McGee, la. Ok, avete sentito per ora due pezzi, anzi tre. Il primo ovviamente l'avrete riconosciuto ed era I dubbi dell'amore, splendidamente dedicato a Caterina da Pina. E poi avete sentito in sottofondo Janis Joplin con Cry Baby e adesso Me and Bobby McGee. Sempre dalla splendida voce di Janis Joplin. Proseguiamo ovviamente la nostra trasmissione sulla guerra e come vi dicevo abbiamo dei pezzi preparati, dei pezzi un po' a braccio e qualche pezzo in qua e là lo leggiamo da cose che ci hanno colpito. E, adesso vi leggiamo un pezzo che ha preparato Claudia, la nostra compagna di gruppo, che si intitola Donne contro. In sottofondo metteremo Illusiones da Marginal di Oshi Curiel. Bene, il TG3 apre con il viso di una donna di colore terrorizzata ed angosciata, prigioniera di guerra. L'impressione istantanea è che sia un'irachena, chissà mai perché, indovinate un po'. Ma poi biascica Texas e la prima reazione è di incredulità. Ma ho sentito bene, sì, sì, è proprio americana. Gli Yankee li avevo introiettati come cowboy, solidi, alti, biondi. E questa povera ragazza nera che c'entra con gli invasori prepotenti ed arroganti? Come ha potuto finire lì? Lei che, anche se negra, è pur sempre una donna. Subito ho la sensazione che se fosse stata bionda non avrei provato la commiserazione che provo ora. E senz'altro non l'avrei scambriata per un'irachena. A mente fredda rimugino su quanto sia labile il confine tra invasore e invaso. Quando si stia dalla parte dei sudditi, entrambi vittime dei potenti, ma altre considerazioni mi viene da dedurre. Non è che per caso siamo portati ad analizzare e forse giustificare di più le culture altre da noi? Musulmane, nere, zingare, in fondo sono diverse. Si possono anche capire, sono represse e quindi non è colpa loro. Diciamocelo. Sono culturalmente arretrate e noi le compatiamo. Siamo invece spietate con le donne occidentali e anche con noi stesse. Noi siamo superiori. Ci siamo liberate. Possiamo decidere e comandare. Tranne che non si sia lesbica, ovviamente. Ma davvero è così? Veramente siamo noi quelle che stanno meglio? O forse, proprio perché usando gli strumenti che la cultura maschile ci lascia adoperare, non a tutte comunque, essendoci rese conto della condizione di sottomissione e di spersonalizzazione che stiamo vivendo, siamo proprio noi le più in crisi ed indifese, non avendo a baluardo una cultura a cui attingere e non intravedendo spiragli di novità all'orizzonte. Y el viejo tirano ya no es enemigo. Ilusiones, esa es la realidad. Colei che rifiuta e disconosce la propria cultura è, parafrasando Manzoni, come un vaso di coccio tra botti di ferro, continuamente esposta agli attacchi del potere maschile sotto forma di morale, sacralità, etica, eccetera, eccetera. Siamo noi, noi donne occidentali, che dobbiamo accettare le decisioni assassine prese dai maschi, con la tremenda chiamata di corresponsabilità in quanto decisioni prese democraticamente dai supremi capi eletti anche col vostro voto, cornute e mazziate. Il governo del popolo, ma che è il popolo? Serve a farci sentire compartecipi delle insensate scelte degli altri, maschi, senza aver scelto un bel niente. Stendiamo un velo pietoso sulla situazione italiana, 33 seggi su 630 alla Camera, 14 su 315 al Senato per le donne. Il dominio totale sul corpo è l'espressione massima della podestà d'imperio. I potenti si sono riappropriati dei corpi dei sudditi, vedi le impronte digitali, e ne dispongono a proprio piacimento, perché continuiamo a fidarci delle istituzioni e a credere che faranno qualcosa per noi? Se perfino l'ONU, che in vero non è che abbia poi contato molto, viene disconosciuta per gli interessi del più forte, cosa mai ci possiamo aspettare dalle altre intese come altre istituzioni, e perché mai le dovremmo difendere? E non tirate fuori adesso l'obiezione donne contro senza per, non serve, perché noi non siamo neanche contro da soggetti. Non abbiamo organizzato un'iniziativa che è una da sole, senza maschi. Parlo di quelle che contano di iniziative. Certo, elaborare una cultura ex novo è un processo impegnativo, doloroso, lungo e forse utopico, ma perlomeno iniziare a fissare delle basi e dei punti fermi da cui partire sarebbe proprio il caso di farlo. E il primo tentativo potrebbe essere quello di schierarsi subito contro la NATO e contro un ipotizzato, nefando esercito europeo per la riconversione delle spese militari in beni e servizi per le donne. Solo per quelle contro, Fuori la NATO dall'Italia, siete d'accordo? E noi aggiungiamo, fuori la NATO dall'Italia e fuori l'Italia dalla NATO. Lucía en calma en tu habitación y mi abrazo se quedaba con ganas de andar. Había decidido ponerlo a volar de nuevo. Oh. Allora, ancora Janis Joplin, ancora pezzi del mio cuore, pezzi dei nostri cuori, vista la situazione. E adesso procediamo un po' con una lettura per cercare di capire come si sia arrivati a questo punto, cioè all'invasione dell'Iraq, che è passata attraverso prima l'invasione dell'Afghanistan. E vi leggiamo dei pezzi, anche se sono scritti da un uomo, ha detto delle cose intelligenti. E questo è Noam Chomsky, psicolinguista nonché comunista dichiarato proprio negli Stati Uniti d'America, da un pezzo tratto da Due ore di lucidità, Questa America che non impara. E di sottofondo continueremo a sentire ancora un po' di Janis Joplin, altra americana intelligente. Chomsky praticamente inizia la sua analisi dicendo: due delitti mostruosi hanno segnato l'inizio del nuovo millennio, gli attentati terroristici dell'11 settembre e la reazione ad essi che ha probabilmente causato un maggior numero di vittime innocenti. L'atrocità dell'11 settembre è considerata da tutti come un evento storico ed è assolutamente vero, ma occorre capire che cosa lo è. In tempo non di guerra, questi delitti rappresentano forse il tributo istantaneo in vite umane più devastante che sia mai stato pagato. La parola istantaneo non va trascurata. Purtroppo sta di fatto che i crimini non sono affatto insolidi negli annali della violenza non bellica, né lo sono le loro conseguenze. Il motivo per cui il mondo non sarà mai più lo stesso dopo l'11 settembre, per riprendere l'espressione corrente in questi giorni, è un altro. Sulle dimensioni della catastrofe che ha già avuto luogo in Afghanistan e su quanto può ancora succedere, si possono fare soltanto congetture. In compenso sappiamo in base a quali proiezioni le decisioni politiche sono state prese. Da qui possiamo immaginare dove andrà il mondo, e il mondo sta andando per strade niente affatto nuove. Già prima dell'11 settembre milioni di afghani sopravvivevano a malapena, unicamente grazie agli aiuti umanitari. Il 16 settembre il New York Times rivelava che Washington aveva preteso dal Pakistan la soppressione dei convogli che trasportavano gran parte degli approvvigionamenti in viveri e in altri prodotti di prima necessità destinati all'Afghanistan. Non ci sono state reazioni, pare, negli Stati Uniti o in Europa, all'annuncio che un numero consistente di persone ridotte allo stremo stava per essere consegnato alla fame e a una morte lenta. Nelle settimane successive, il primo quotidiano del pianeta informava che la minaccia di attacchi militari costringeva le organizzazioni umanitarie internazionali ad abbandonare il paese e comprometteva i programmi di assistenza. La vita era appesa a un filo, diceva un volontario evacuato, e il filo è stato tagliato. Cuando náuseas profundas sientes, buscando no encuentras lugar. Cuando te sientes extraterrestre, eres una marginal. Cuando dormir no puedes por la soledad, cuando se te acusa de agresividad, y estás al borde de estallar, no lo dudes, eres una marginal. Nunca lo puedes negar. Y tú eres una marginal. Más puedes la realidad. Y si tus metas quieres alcanzar, nuevos valores tendrás que inventar. Sí. Para no ser marginal. Rita, parto yo. Allora, riparto io con sempre la lettura di questo pezzo di Chomsky. Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite e altre associazioni sono riuscite ad organizzare alcuni invii di derrate alimentari all'inizio di ottobre. Parliamo sempre della guerra in Afghanistan. Ma le consegne e la distribuzione sono state interrotte a causa dei bombardamenti e hanno potuto riprendere soltanto tempo dopo e con un ritmo molto più lento. Queste organizzazioni hanno condannato senza appello i lanci aerei americani come poco più che mezzi di propaganda. Il New York Times riferiva, senza ulteriori commenti, che per via dei bombardamenti il numero di afghani che dipendevano da aiuti alimentari sarebbe aumentato del 50% fino a raggiungere i 7,5 milioni di persone. In altre parole, la civiltà occidentale decideva i propri piani in base all'ipotesi che portassero alla morte di milioni di civili innocenti, non dei talebani, ma delle loro vittime. Ancora una volta, con un comportamento ritenuto ragionevole e giusto, se non addirittura eroico, il capo della civiltà occidentale respingeva con disprezzo le offerte di mediazione dei talebani e la loro richiesta di una prova attendibile che giustificasse la pretesa della loro capitolazione. L'incaricato speciale dell'ONU per il rispetto dei diritti al cibo ha supplicato gli Stati Uniti di fermare i bombardamenti che mettevano in pericolo la vita di milioni di civili, rinnovando l'appello dell'alto commissario ai diritti umani, Mary Robinson, per evitare che si ripetesse una catastrofe simile a quella del Ruanda. Entrambi gli appelli sono stati respinti, così come quelli delle principali organizzazioni umanitarie, senza che se ne sapesse nulla o quasi. Non lo puedes negar, transgrediendo, es que podemos crear la cultura nueva del rispetto e libertà. A fine settembre, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura, meglio denominata FAO, temeva che 7 milioni di afghani potessero patire la fame se l'invio degli aiuti non fosse ripreso subito e se non fossero stati eliminati i rischi di un'azione militare. Dopo l'inizio dei bombardamenti, la FAO paventava ancora più seriamente una catastrofe umanitaria. I bombardamenti avevano interrotto la semina che garantiva l'80% delle risorse in cereali del paese, per cui le conseguenze della guerra sarebbero state molto più gravi l'anno dopo. Nessuna informazione è stata data in proposito. Gli appelli, rimasti lettera morta, hanno coinciso con la giornata mondiale dell'alimentazione, passata anch'essa sotto silenzio, insieme all'accusa dell'incaricato speciale dell'ONU, per il quale i ricchi e i potenti avevano i mezzi ma non la volontà di porre termine a questo genocidio silenzioso. Gli attacchi aerei, dice la stampa, hanno trasformato i grandi centri abitati in città fantasma e i sistemi di distribuzione di acqua ed elettricità sono stati distrutti, quasi una forma di guerra biologica. Il 70% degli abitanti sarebbe fuggito da Gandhar e da Herat, per lo più verso le campagne, dove anche in tempi non di guerra, ogni giorno vengono uccise o ferite da mine antiuomo dalle 10 alle 20 persone, cifre che ora sono notevolmente aumentate. L'ONU ha sospeso le operazioni di sminamento e i pericoli crescono insieme alle bombe americane inesplose, in particolare per gli elementi dispersi dalle bombe a frammentazione, molto più difficili da rimuovere. Degli sventurati che ne rimarranno vittime non si conoscerà la sorte, né, stando all'esperienza passata, si cercherà di conoscerla. Le inchieste approfondite sono riservate alle conseguenze di crimini imputabili ai nemici ufficiali e in tal caso il conteggio comprende non solo i morti immediati, ma anche il numero infinitamente superiore delle vittime delle politiche che vengono condannate. Per i crimini nostri valgono altri criteri e non si tiene conto delle conseguenze. Nel caso dell'Afghanistan, se mai ci sarà un'inchiesta, tutto ciò sarà attribuito a qualsiasi causa, siccità, talebani, fuorché ai crimini di coloro che hanno applicato un piano deliberato, sapendo che avrebbe ucciso numerosi innocenti. Planetas en mi signo, incienso, gran abismo, y solo yo. Abbiamo scelto per questa seconda parte di farvi sentire tanti pezzi da Oshi Kuriel, che è una cantautrice di lotta femminista e lesbica. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad. Indígena eres, color de tierra, mujer fortaleza y dignidad. Questo pezzo si chiama Esther Zapatista e riprendiamo la lettura con il pezzo in sottofondo, sperando che porti bene. Se ne stupiranno soltanto quelli che ignorano tutta quella storia recente. Tutto cioè della storia recente. Le vittime, dopo tutto, saranno quelle tribù incivili di cui Winston Churchill parlava con condiscendenza 80 anni fa, quando intendeva usare gas tossici contro afghani e curdi, pur di incutere loro un vivo terrore. Senza che si sia saputo molto delle conseguenze, 10 anni fa infatti la Gran Bretagna ha deciso di dotarsi di un governo aperto, il cui primo atto fu di far sparire dagli archivi nazionali tutti i documenti sull'uso dei gas tossici contro dette tribù incivili. Se occorre sterminare le popolazioni indigene, così sia, diceva a metà dell'Ottocento un ministro della guerra francese nell'annunciare le operazioni in corso in Algeria. Non sarebbe stato l'ultimo. È talmente facile quello che accade agli afghani, è ormai un classico della storia moderna, quindi è normale che tali eventi non suscitino né l'interesse né preoccupazioni, anzi, non vale nemmeno la pena di parlarne. E qui arriva un punto secondo me estremamente interessante, di cui lo scrittore, di cui Chomsky parla. I crimini dell'11 settembre segnano davvero una svolta storica, non per la loro dimensione, ma per il loro bersaglio. Da quando gli inglesi hanno incendiato Washington nel 1814, non era mai più successo che il territorio nazionale americano fosse attaccato o soltanto minacciato. Semmai erano gli americani a minacciare o a invadere i territori altrui. Per la prima volta i cannoni sono stati puntati nella direzione opposta ed è questa la svolta storica. Lo è ancora di più forse per l'Europa, che ha subito distruzioni terribili, però nel corso di guerre interne. In compenso, le potenze europee hanno conquistato gran parte del mondo senza tanti complimenti e, con rarissime eccezioni, non sono state aggredite dalle proprie vittime. Il Congo non ha attaccato il Belgio, né l'Indonesia e i Paesi Bassi, né l'Algeria la Francia. L'elenco è lungo ed i delitti sono stati orrendi, quindi non stupisce che l'Europa sia rimasta sconvolta per l'atrocità dell'11 settembre. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, che è una trasmissione autogestita che va in onda ogni martedì sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Chi la gestisce siamo le compagne lesbiche del coordinamento Lesbiche Romane. Potete chiamarci in radio allo 06 47 17 50 ogni martedì. Oppure potete chiamarci ogni mercoledì dalle 20.30 in poi presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B o telefonarci allo 06 68 64201 sempre il mercoledì. Se siete informatizzate potete scriverci una mail a contatti@clrbp.it oppure visitare il nostro sito www.clrbp.it. Vi aspettiamo per intanto giovedì per Les Bollywood e intervenite numerose. Vi salutiamo tutte, salutiamo anche Caterina, insomma vi ricordiamo che adesso prenderemo il quarto d'ora in diretta, ma prima di andare in diretta voglio ricordare a tutte che domani 2 aprile alle ore 10 ci sarà una manifestazione perché il sindacalismo di base tutto, la CUT, l'RTB, il COBAS, lo SLAI COBAS e quant'altro hanno dichiarato lo sciopero generale contro la guerra, quindi ci sarà una grande manifestazione a partire dalle ore 10 da Piazza della Repubblica. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me here. largo del camino me encuentro sola hoy. Aquí en el centro del abismo no encuentro dónde estoy. Y las paredes son más altas y más duras. La ideología no es una utopía. Toda la gente ya está carcomida de compra y venta de éticas perdidas. Aquí de nuevo repasando mis sueños otra vez. Allora, siete nel quarto d'ora di diretta. Abbiamo superato brillantemente, io e Pina, la prova tecnica di trasmissione. Speriamo che sia andato tutto bene e noi vorremmo continuare con voi questa lettura, se